Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. Un nuovo capitolo in un romanzo è come una nuova scena in un dramma. Ero convinta che al mio arrivo a Millcott avrei trovato qualcuno ad attendermi scendendo dalla diligenza. Mi aspettavo di sentir pronunciare il mio nome, di vedere una carrozza pronta a condurmi a Thornfield. E invece non c'era niente di simile. E quando ho chiesto a un cameriere se fosse venuto qualcuno a cercare una certa signorina Eyre, mi fu risposto di no. Perciò non mi rimase che chiedere una stanza. Ed eccomi dunque qui, ad aspettare con la mente turbata da dubbi e paure d'ogni genere. E nel mio caso la paura ebbe il sopravvento, quando mi accorsi che era passata mezz'ora ed ero ancora sola. Pensai allora di suonare il campanello. «C'è un posto che si chiama Thornfield nelle vicinanze?» chiesi al cameriere che si presentò alla porta. «Thornfield? Non so, signorina, vado a domandare». Scomparve per tornare quasi subito. «Vi chiamate a signorina? Sì? C'è una persona che vi aspetta». Balzai in piedi e corsi nell'atrio. Fermo, accanto alla porta aperta c'era un uomo e in strada, alla luce fioca dei lampioni, vidi una carrozza con un solo cavallo. «Quello è il vostro bagaglio, immagino», disse l'uomo piuttosto bruscamente quando mi vide, indicando il baule sul pavimento. «Sì». Allora lo caricò sul veicolo, una specie di calesse. Quindi salì anch'io. Prima che richiudesse il portello, gli chiesi quanto distava Thornfield. «Questione di 6 miglia». «E quanto ci vorrà per arrivare?» «Bah, diciamo 1 ora e mezzo». Chiuse il portello, salì a cassetta e partimmo. Si procedeva lentamente, il che diede ampio spazio alle mie riflessioni. Ero contenta di essere quasi arrivata alla fine del viaggio. E appoggiandomi allo schienale di quella comoda, seppure non certo raffinata vettura, mi abbandonai ai miei pensieri. Il calesse si fermò davanti alla porta della casa, che fu aperta da una domestica. «Prego, da questa parte, signorina», disse la ragazza, e seguendola attraversai un atrio quadrato con alte porte tutto intorno. Mi fece entrare in una stanza dove rimasi abbagliata dalla luce delle candele e del fuoco acceso, perché nelle 2 ore precedenti i miei occhi si erano abituati al buio. Quando riuscii a vedere, mi si presentò uno scenario intimo e piacevole. Una stanza, minuscola e accogliente, con un tavolo rotondo accanto a un bel fuoco e una vecchia poltrona con lo schienale alto su cui era seduta la vecchina più graziosa che si possa immaginare, in abito di seta nera, cuffia vedovile e grembiule di mussola immacolato. Esattamente come mi ero immaginata la signora Fairfax, solo con un'aria meno solenne e più mite. Era impegnata a sferruzzare. Un grosso gatto era dignitosamente accucciato ai suoi piedi e, insomma, non mancava proprio nulla a completare quel quadretto di serenità domestica. A malapena si può immaginare un esordio più rassicurante per una nuova governante. Non c'era nulla di pomposo a mettermi in soggezione, nulla di troppo formale a imbarazzarmi. Non solo, quando entrai, la vecchia signora si alzò e mi venne subito incontro con una grande premura. «Come state, mia cara? Temo che il viaggio sia stato noioso. John va così piano, ma sarete infreddolita. Venite accanto al fuoco!» «La signora Fairfax, immagino», dissi. «Sì, sono io, ma sedetevi, prego!» Mi guidò verso la sua poltrona. Poi fece per togliermi lo scialle e sciogliermi i lacci della cuffia, mentre io la pregavo di non disturbarsi. «Ah, nessun disturbo, avrete le mani intirizzite dal freddo. Lì, preparate un vin brûlé e qualche tramezzino. Ecco qui le chiavi della dispensa». E così dicendo estrasse dalla tasca un gran mazzo di chiavi e le consegnò alla domestica. «Su, venite più vicino al fuoco», continuò. Avete con voi il vostro bagaglio, non è vero, cara? Sì, signora. Lo farò portare nella vostra stanza, disse, e si mise subito in moto. Mi tratta come un ospite, pensai. Non mi aspettavo certo di essere ricevuta così. Credevo di trovare solo freddezza e alterigia. Per quel che ne so, di solito, non è questo il trattamento riservato a un'istitutrice. Ma è meglio che aspetti a cantare vittoria. Quando tornò, tolse con le sue mani il lavoro a maglia e un paio di libri dal tavolino per fare posto al vassoio che aveva portato lì. Dopodiché fu lei a servirmi. Non essendo mai stata oggetto di simili attenzioni, oltretutto da parte di una persona di grado sociale più elevato e che mi aveva appena assunta, ero piuttosto confusa. Ma dal momento che a quanto pare lei faceva tutto ciò con la massima naturalezza, pensai bene di accettare di buon grado tutte quelle premure. «Dunque avrò il piacere di conoscere la signorina Fairfax stasera?» chiesi dopo essermi servita di quel che mi offriva. «Come ha detto, mia cara, sono un po' sorda, sa?» rispose la buona signora accostando l'orecchio alla mia bocca. Ripetei la domanda più chiaramente. «La signorina Fairfax. Ah, volete dire la signorina Varin, la vostra futura allieva? Si chiama Varin.» «Ah, davvero? Allora non è vostra figlia?» «No, io non ho famiglia.» Avrei voluto dar seguito alla mia richiesta di informazioni chiedendo in che modo fossero legate lei e la signorina Varin, ma mi ricordai che non ero educato a fare troppe domande. E poi ero certa che l'avrei scoperto a tempo e luogo. «Sono contenta», continuò sedendosi di fronte a me e prendendo il gatto sulle ginocchia. «Sono proprio contenta che siate arrivata voi. Sarà bello avere un po' di compagnia. Certo, è bello comunque perché Thornfield è una vecchia dimora elegante, forse un po' trascurata ultimamente, ma pur sempre un posto rispettabile. Ma in inverno. È terribile essere soli, sapete? Anche nei luoghi migliori. Soli, sì. Perché lì è una ragazza adorabile, non si discute, e anche John e la moglie sono delle gran brave persone, ma sono solo dei domestici, voi capite, non si può conversare con loro da pari a pari, bisogna tenerli alla giusta distanza per non rischiare di perdere l'autorità. L'inverno scorso, che se ricordate è stato rigidissimo, e quando non nevicava pioveva e tirava vento, da novembre a febbraio non si è presentata anima viva, a parte il macellaio e il postino. E a furia di star sola una sera dopo l'altra mi è venuta una malinconia. Ogni tanto veniva lì a leggermi qualcosa, ma non credo che le piacesse granché, povera ragazza. In primavera e in estate va meglio, col sole, le giornate più lunghe, cambia tutto. E poi all'inizio dell'autunno è arrivata la piccola Del Varin con la bambinaia. Un bambino in casa, porta la vita da un giorno all'altro, e adesso che ci siete anche voi, chissà che allegria! La mattina dopo mi alzai e mi vestii con cura. Costretta a indossare abiti semplici, poiché non possedevo indumenti meno che modesti, per natura ero tuttavia attenta a essere sempre in ordine. Non ero abituata a trascurare le apparenze o l'impressione che gli altri avevano di me. Al contrario, ci tenevo a presentarmi sempre al meglio e ad avere un aspetto gradevole per quanto me lo permetteva la mia scarsa avvenenza. Talvolta rimpiangevo di non essere più bella. Mi sarebbe piaciuto avere le guance rosate, il naso dritto, la bocca piccola, le labbra rosse. Avrei voluto essere alta, ben proporzionata e avere un bel portamento. Consideravo una sfortuna il fatto di essere invece piccola, pallida, coi lineamenti così irregolari e marcati. Ma perché avevo queste aspirazioni e questi rimpianti? Difficile dirlo. A quel tempo non avrei saputo spiegarmelo. Eppure un motivo c'era. Ed era un motivo perfettamente logico e naturale. Tuttavia, quando mi fui spazzolata bene i capelli, ebbi indossato il mio abito nero, che mi faceva sembrare una quaccura, ma se non altro mi andava a pennello, e mi fui sistemata il fichu immacolato, ritenni di avere un'aria abbastanza rispettabile per presentarmi alla signorina Fairfax, e che la mia allieva almeno non si sarebbe ritratta inorridita. Dopo aver aperto la finestra ed essermi assicurata che sulla toilette fosse tutto in ordine, mi avventurai fuori. «Ma come, già qui?» esclamò la signora Fairfax. «Vedo che vi alzate di buon'ora!» Le andai incontro e mi ricevette con un bacio affettuoso e una stretta di mano. «Allora cosa ne dite di Thornfield?» domandò. Risposi che mi piaceva molto. «Eh sì», disse lei, «è un gran bel posto. Ma temo che andrà in malora se il signor Rochester non si metterà in testa di abitarci, o almeno di venirci più spesso. Le grandi case e le belle proprietà richiedono la presenza del padrone». «Il signor Rochester?» esclamai. «Chi è?» «Il padrone di casa», rispose tranquillamente lei. «Non lo sapevate che si chiama Rochester?» «Certo che non lo sapevo. Era la prima volta che lo sentivo nominare. Ma a quanto pare la vecchia signora considerava la sua esistenza un fatto universalmente noto, che tutti dovevano conoscere come per istinto. Ma io credevo», continuai, «che Thornfield fosse vostra». «Mia, ma benedetta ragazza, che idea mia! Ma io sono solo la governante, quella che si occupa della casa. Certo, sono imparentata coi Rochester, alla lontana per parte di madre, o almeno lo era mio marito. La madre dell'attuale signor Rochester era una Fairfax, cugina di secondo grado di mio marito, ma io non ho mai approfittato della parentela, anzi, non significa niente per me. Io mi considero una normale governante. Il mio principale è sempre corretto e io non mi aspetto altro». «E la bambina, la mia allieva?» «È la pupilla del signor Rochester. È stato lui a incaricarmi di trovarle un'istitutrice. Credo che intenda farla crescere nella nostra contea. Ah, eccola che arriva con la sua bonna, come chiama la bambinaia». Ecco spiegato l'enigma. Questa piccola vedova buona e gentile non era una gran dama, ma una semplice dipendente come me. Non che questo diminuisse la considerazione che avevo per lei. Al contrario, ne fui felice. La parità tra noi due era reale, non il risultato della sua condiscendenza nei miei confronti. Tanto meglio. Questo mi rendeva molto più libera. Mentre riflettevo su quella scoperta, una bambina seguita dalla donna che l'accompagnava si mise a correre sul prato. Guardai la mia allieva che da principio non sembrò accorgersi di me. Era proprio una bambina sui 6 o 8 anni, esile, pallida e con i lineamenti delicati, e una cascata di ricci che le arrivavano alla vita. «Buongiorno, signorina Dell», disse la signora Fairfax. «Venite a presentarvi alla vostra istitutrice, che un giorno farà di voi una donna istruita». La piccola si avvicinò. «C'est la gouvernante?» chiese la bambinaia indicandomi. «Mais oui, sûrement», rispose la bambinaia. «Sono straniere?» mi informai sorpresa di sentirle parlare francese. «La bambinaia sì, e Adele è nata in continente e credo che ci sia rimasta fino a 6 mesi fa. Per fortuna avevo avuto il vantaggio di imparare il francese da una madrelingua. All'inizio Adele mi rispose a monosillabi, ma dopo che ci fummo sedute a tavola e mi ebbe scrutata per una decina di minuti con i suoi grandi occhi color nocciola, cominciò all'improvviso a parlare a ruota libera. «Ah!» esclamò in francese. «Voi parlate la lingua bene come il signor Rochester. Mademoiselle, come vi chiamate?» «Air. Jane Eyre. Ehi, Eyre, non so dirlo. Ma voi la capite quando parla così in fretta? Chiese la signora Fairfax. La capivo perfettamente perché ero abituata all'eloquio incalzante di Madame Pierrot. Vorrei, continuò la buona signora, che le faceste un paio di domande sui suoi genitori, chissà se si ricorda di loro. Adele, le chiesi, con chi vivevi quando abitavi in quella bella città pulita di cui mi hai parlato? Tanto tempo fa vivevo con la mamma, ma poi lei è andata dalla Santa Vergine. La mamma mi insegnava a ballare, a cantare, a dire le poesie. Venivano a trovarla un sacco di signore e di signori e io ballavo davanti a loro oppure mi sedevo a cantare in braccio a loro. Mi piaceva molto. Volete che vi canti qualcosa? Aveva finito di fare colazione, perciò le permisi di mostrarmi i suoi talenti. Scese dalla sedia e venne a mettersi sulle mie ginocchia. Poi, unendo le mani davanti a sé, con un gesto pieno di modestia, gettando indietro i riccioli e levando gli occhi verso il soffitto, si mise a cantare un'aria da un'opera. Dopo colazione, Adele e io ci ritirammo nella biblioteca, la stanza che, a quanto pare, il signor Rochester aveva deciso di adibire ad aula scolastica. I libri erano quasi tutti sotto chiave dentro una libreria a vetri. C'era però uno scaffale aperto con tutto ciò che poteva servire per un'istruzione elementare, oltre a diversi volumi di letteratura per l'infanzia, poesie, biografie, cronache di viaggio, qualche romanzo cavalleresco, eccetera, eccetera. Nella stanza c'era anche un pianoforte verticale, nuovo e di ottima qualità, un cavalletto per dipingere e due mappamondi. Trovai la mia allieva abbastanza disciplinata, sebbene un po' distratta. Non era abituata ad applicarsi regolarmente ad attività di alcun tipo. Pensai che all'inizio non fosse il caso di tenerla troppo rinchiusa, perciò, dopo aver passato parecchio tempo a spiegare ed essere riuscita a farle imparare qualcosa, e visto che ormai era quasi mezzogiorno, la lasciai tornare dalla bambinaia. A quel punto decisi che, mentre aspettavo l'ora di pranzo, avrei disegnato qualcosa da usare con lei più tardi. Mentre salivo a prendere la mia cartella e le matite, la signora Fairfax mi chiamò. «Per questa mattina le lezioni sono finite, immagino», disse. Era in una stanza, con le porte a soffietto aperte, e nel sentirmi apostrofare, entrai. Era un ambiente ampio ed elegante, con sedie e panneggi color porpora, un tappeto turco, boiserie di noce alle pareti, una grande finestra dai vetri storiati e un alto soffitto con stucchi preziosi. La signora Fairfax stava spolverando alcuni vasi di spato finissimo, pure color porpora, su una credenza. «Come le tenete in ordine queste stanze, signora Fairfax?» esclamai. «Nemmeno un granello di polvere, niente fodere di tela. Se non fossero così fredde, si direbbe che vengano usate tutti i giorni.» «Ah, signorina Eyre, anche se le visite del signor Rochester sono rare, può stare certa che sono sempre improvvise e inaspettate. E siccome ho notato che lo irrita trovare i mobili coperti e sentire il trambusto di noi che riordiniamo la casa al suo arrivo, ho pensato bene di tenere le stanze sempre pronte.» «Dunque il signor Rochester è un uomo esigente e pignolo?» «Non particolarmente, ma ha i gusti e le abitudini di un gentiluomo e si aspetta che tutto funzioni di conseguenza. E a voi è simpatico? Alle persone piace di solito?» «Ah sì, la famiglia è sempre stata rispettata da queste parti. Quasi tutti i terreni della zona, fin dove riuscite a vedere, appartengono ai Rochester da tempo immemorabile.» «Beh, ma a parte i terreni, a voi piace? È amato semplicemente per se stesso?» «Per quanto mi riguarda non c'è ragione perché non debba piacermi e ho ragione di credere che sia considerato un proprietario giusto e generoso dai suoi fittavoli. Certo, non ha mai vissuto molto in mezzo a loro, ma non ha nessuna caratteristica particolare. Insomma, che tipo di persona è?» «È una persona irreprensibile, direi, forse un po' strano. Ha viaggiato molto, ha visto il mondo, penso. Sono certa che è intelligente, ma non ho mai conversato molto con lui.» «Strano in che senso?» «Non so, è difficile da spiegare. Niente di straordinario, ma si avverte parlando con lui. Non si è mai sicuri se scherza o se dice sul serio, se è contento o no. Insomma, è difficile capirlo davvero. Almeno io non ci riesco. Ma questo non ha importanza, in realtà è un ottimo padrone. E questo fu tutto quello che cavai alla Fairfax sul suo datore di lavoro e sul mio. Ci sono persone che a quanto pare non sanno delineare un carattere o osservare e descrivere le caratteristiche salienti di una persona o di un oggetto. E la buona signora chiaramente apparteneva a questa categoria. Le mie domande le davano da pensare, ma non l'aiutavano a esprimersi. Ai suoi occhi Rochester era Rochester, un gentiluomo, un proprietario terriero, niente di più. Non le interessava, né voleva scoprire altro. Ed era evidente che il mio desiderio di farmi un'idea più precisa sulla sua personalità la sconcertava. Quando uscimmo dalla sala da pranzo mi propose di mostrarmi il resto della casa e io la seguì al piano di sopra e a quello di sotto, sempre con occhi ammirati perché ogni stanza era arredata con molto gusto. «Salgo sui piombi, volete venire a vedere il panorama da lassù?» Mi mise nuovamente a seguirla, su per una rampa strettissima che ci condusse alle soffitte e di lì per una scala a pioli attraverso la botola al tetto. Non c'era nulla di spettacolare in quello scenario, ma tutto era una gioia per gli occhi. Quando rientrai nella botola per scendere la scala, quasi non riuscii a vedere dove mettevo i piedi. La soffitta mi sembrò buia come una tomba a confronto dell'immensa volta azzurra che avevo contemplato poco prima. La signora Fairfax si attardò un momento per chiudere la botola. Io uscii dalla soffitta a tentoni e ridiscesi la scaletta angusta, poi indugiai nel lungo corridoio che separava le stanze del terzo piano poste sul davanti da quelle sul retro. Era un andito stretto, basso e in penombra, con una sola finestra in fondo e con le sue due file di porticine nere tutte chiuse. Avrebbe potuto trovarsi nel castello di Barba Blu. Mentre procedevo in punta di piedi, l'ultimo suono che mi sarei aspettata di udire in un luogo così silenzioso mi perforò l'orecchio. Una risata, stranissima eppure chiara, distinta e senza gioia. Mi fermai. La risata si interruppe per un attimo, poi riprese, più forte, poiché all'inizio, sebbene inequivocabile, era molto bassa. Pian piano si trasformò in uno scroscio di risa clamorose che sembrò riecheggiare in ciascuna di quelle stanze deserte. Eppure era chiaro che proveniva da una soltanto, e avrei anche potuto indicare da quale. «Signora Fairfax!» gridai, perché in quel momento la sentii scendere le scale che portavano al piano di sotto. «Avete sentito che risata? Chi è?» «Una delle domestiche, probabilmente», rispose. «Forse Grace Poole». «Ma l'avete sentita?» insistetti. «Sì, perfettamente, la sento spesso. Cuce in una di quelle stanze. Qualche volta c'è anche lì e quando sono insieme fanno spesso rumore». La risata si ripeté, stavolta più bassa e spezzata, e finì in uno strano brontolio. «Grace!» esclamò la Fairfax. In realtà non mi aspettavo affatto che Grace o chiunque altro rispondesse, perché quella risata era la più tragica e inquietante che avessi mai sentito. E per fortuna era mezzogiorno. E dunque quel riso smodato non poteva avere nulla a che fare con i fantasmi. E nemmeno le circostanze e il momento inducevano alla paura. Altrimenti sarei stata assalita da un terrore irragionevole. Tuttavia, quello che seguì mi mostrò che ero stata una stupida perfino a sorprendermi. La porta più vicina si aprì e ne uscì una domestica. Una donna, fra i 30 e i 40 anni, tozza e robusta, rossa di capelli, con una faccia dura e insignificante. A stento si poteva immaginare un'apparizione meno romantica e spettrale. «Troppo rumore, Grace», disse la Fairfax. «Non dimenticate gli ordini!» Grace si inchinò in silenzio e rientrò nella stanza. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.